si yo, viene lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Metto subito le mani avanti, che io sia un infame, un traditore, me lo hanno già scritto adesso su Facebook. Questa mattina tradirò vigliaccamente il mio genere di appartenenza. Ma devo recuperare il target femminile, quindi oggi vorrei istigare le ascoltatrici a mettere all'indice le tipologie di maschi detestabili. Oggi faremo una veloce quanto intensa e quanto implacabile carrellata sulle tipologie maschili più frequenti, quelle che più normalmente e per consuetudine vi trovate di fronte ogni giorno. Ve li trovate come compagni di lavoro, ve li trovate come rispettabili e leciti compagni di vita, ve li trovate come seduttori potenziali, ve li trovate come disastrosi tentativi di uscire dall'isolamento e di rompere la routine. Maschi terrificanti. Iniziamo a dare il vostro prezioso contributo telefonando all'800 24 0024 e iniziamo subito questa crudele disanima su quello che è il genere maschile che tuttora è a portata di mano di ogni donna desiderosa di uscire dall'isolamento della propria femminilità. E inizio subito dando una testimonianza delle più crude, ma ahimè non possiamo fare a meno di mandarla in onda, di una ragazza inglese, una delle tante che capita di trovare di fronte alla porta di questa redazione, che ci dà il suo punto di vista, ahimè, senza riserve e senza pietà, su quello che è l'uomo italiano, il maschio latino, il seduttore per vocazione, visto dallo sguardo di una timida e romantica fanciulla inglese. Ciao, sono una ragazza inglese, sono qui a Roma da quasi 2 anni. Io lavoro in un pub, ho avuto qualche esperienza sui maschi italiani, nel senso che ero lì davanti a un banco con i capelli biondi, sembro a loro che sono facile, non lo so, perché tutti mi guardavano, però sono uscita con un ragazzo italiano, ho scoperto che lui è abbastanza immaturo, un mammone un po' permaloso, superficiale, non mi ha ascoltato molto, voleva soltanto una ragazza inglese accanto a lui che con i capelli biondi, non mi ha chiesto niente della mia vita, di me, ha detto che noi uomini italiani siamo sempre caldi, è per questo che devono sempre pensare all'amore, che la domenica lui sempre non c'era perché è andato dalla mamma. È vero che il maschio italiano è caldo, è bello anche, però deve crescere un po'. Qualcuno sta già maliziosamente insinuando che la voce di questa fanciulla romantica inglese delusa al maschio italiano assomigli tantissimo a Paola, la nostra riscattatrice lessicale che apparve a questi microfoni qualche settimana fa. Ma vi assicuro che è una verosimiglianza, ma non una corrispondenza totale. Già stanno arrivando i primi messaggi di femmine indignate, ma è giusto che questa mattina affondo a piene mani e gioiosamente nel vostro sdegno, nel vostro senso di rivalsa, nella vostra volontà di denuncia, nel vostro sincero, glorioso e liberatorio sputtanamento del genere maschile. 800 24 0024. Michela dice: in generale sono esseri umani detestabili, arroganti, ignoranti, egoisti, cattivi, animati da solo spirito di contraddizione, in sintesi sono stupidi. Barbara: quelli detestabili sono quelli pieni di sé fino a scoppiare, gli elargitori di verità assoluta che appena possono si nascondono dietro agli altri, che rimangono inchiodati appena devono muoversi per primi. Silvia: quelli che cercano di fare brillanti non ci riescono, quelli che ti trattano con fare supponente paternalistico, dando per scontato che tu, donna, penderai dalle loro labbra. Barbara: quelli che parlano, appena devono passare all'azione trovano 1000 scuse. Michela: quelli che ora dimmi di te, cosa pensi di me? Gli netti, lamentosi, frignosi, sempre Barbara, quelli che ti raccontano la loro giornata nei mini dettagli, alla fine vanno a fare la pipì, senza nemmeno chiederti come va, i mammoni, gli invertebrati. Insomma, vedo che su Facebook, nel mio profilo perlomeno, stanno fiorendo gli autos da fe, le dichiarazioni, i percorsi dolorosi in cui viene esposto il genere maschile, a cui anche noi apparteniamo, non ci tiriamo fuori, ma in questo momento godiamo dell'infame privilegio di cui gode il capone, il campo di concentramento, colui che tradisce coloro che appartengono al suo stesso genere, alla sua stessa gente, per procurarsi dei vantaggi momentanei. E quindi, immersi e soddisfatti di questa nostra schifosa funzione, andiamo avanti nella galleria degli uomini detestabili. Il libero professionista è minuto, perfettamente curato, specialmente nelle unghie, sempre pettinato e leggermente profumato, appena appena. Più un'assenza di odore che un vero profumo. Parla sottovoce, ha gesti pacati e lenti. Non è né bello né brutto, è tremendamente rassicurante. Alla donna dice sempre che se ne occupa lui, dalla scelta dell'albergo all'itinerario di viaggio. In realtà fa fare tutto alla segretaria ed è impacciatissimo in ogni cosa pratica, però ha i soldi e con quelli ci risolve tutto. Aggira ogni ostacolo, non lo affronta mai di petto. Raramente perde la pazienza, parla moltissimo e di molti argomenti. È colto, ha una formazione classica e qualche sogno inconfessabile nel cassetto. La professione è un'eredità di famiglia che non lo gratifica se non per il potere e per i soldi. Vita comoda ma demotivante che lo induce alla depressione, specialmente con lo scorrere degli anni tutti uguali in cui le uniche differenze sono state le donne. Non fatica a conquistarle, il difficile è tenersele. La solidità della professione è appunto quell'aria sempre un po' professionale da... Non si preoccupi, risolveremo. Lo fa percepire come un placido rifugio in cui ogni donna, prima o poi, desidera ritirarsi. Già abbiamo lambito alcuni degli aspetti schifosi e detestabili di questo genere d'uomo quando parlammo una settimana fa del fascino che viene attribuito a un essere di sesso maschile dal suo potere di acquisto. Questo signore fa del suo potere acquisto naturalmente la sua più fulgida arma di fascino. E naturalmente, giustamente, come funziona secondo natura e secondo cultura, ha un discreto parco di possibilità di alternativa alla sua solitudine maschile. Continuano a fioccare messaggi. Barbara dice: i detestabili sono quelli che domenica pomeriggio vanno al parco in tuta da ginnastica con la radiolina alle orecchie ascoltando le partite. Mi sembra un po' desueto come modello, mi sembra ormai appartenere a quella sorta di maschio in via di estinzione. La tuta da ginnastica con la radiolina si vede soltanto in alcuni parchi residuali in cui non si muove l'avanguardia della detestabilità del genere maschile, ma è pur buona la testimonianza di Barbara. Io dicevo questa mattina la scheda implacabile che avete ascoltato e altri farò ascoltare sono tratte da un trattato molto interessante e molto approfondito sul repertorio del maschio italiano, appunto si chiama Il repertorio del maschio italiano, è uscito per l'editrice Luciana Tufani un paio di anni fa, è una guida personale all'approccio con alcune tipologie di uomo per evitare spiacevoli inconvenienti, quindi un vademecum che classifica e rappresenta la tipologia del bestiario maschile dando alcuni consigli sul come poter gestire comunque questa massa informe di umanità. L'autrice, l'esperta in materia è Marzia Marchi che abbiamo al telefono. Marzia Marchi, buongiorno. Buongiorno. Dove si è fatta le ossa lei per aver fatto un manuale così attento e così dettagliato? Ma credo che sia la pratica quotidiana di ogni donna questa, di una donna che naturalmente vive nella società, io insegno, faccio l'ambientalista, frequento molte persone, naturalmente molti uomini. Quindi frequenta anche i parchi, quindi risponde a verità l'uomo in tuta da ginnastica che corre leggiato con la radolina all'orecchio o è estinto? No, io non ho questa esperienza, nel senso che i parchi li frequento da un punto di vista ambientalista, però credo che sia si verifichi più che la radiolina, adesso c'è l'uomo molto palestrato che ha bisogno di tenersi molto in forma e che quindi poi fa delle cose esagerate nel correre, ecco, perché deve curare molto il fisico. Quindi il senso, diciamo, di questo suo repertorio del maschio italiano è un manuale di sopravvivenza, perché tutto sommato dice il mercato questo passa, questo troviamo, la differenza è soltanto nel saper amministrare, nel saper gestire comunque questa massa di esseri umani e tirarne fuori il meglio. Sì, direi che l'idea in base al quale l'ho scritto è stato un po', tra virgolette, una piccola vendetta, nel senso che adesso vi classifico, vi ho imparato a conoscere, quindi non ci casco più e lo dico anche alle altre donne. Dall'altro lato però, siccome il testo è molto ironico, non vuole neanche essere né cattivo né un saggio femminista, come scrivo poi nella prefazione, è anche... No, non mi sembra, tutt'altro femminista, mi sembra un manuale di uso ed abuso dei maschi... usandoli per quello che sono, senza pretendere sì, altro. Cioè, impariamo a conoscerli, a prendere le misure, è un universo che è molto differente. Prendere le misure è una frase ardita, comunque. Beh, a volte bisogna fare anche quello, quindi... Sì, perché sfatiamo anche questo luogo comune, diciamo, in questo bestiario maschile, anche questa sorta di compensazione attraverso comportamenti eclatanti dell'antico e risolto problema della propria mascolinità mi sembra evidente. Questo dicevo che è una così un'idea di prontuario riferito al maschio italiano, perché ho conosciuto solo maschi italiani, devo dire la verità, e quindi è un'idea di tratteggiare delle tipologie, perché indipendentemente dalla professione ci sono delle caratteristiche che ritornano in tanti tipi di uomini diversi, di diverse età, di diversa estrazione sociale, ma si ritrovano delle caratteristiche. Quindi ecco, io cito soltanto qualche titolo di questa sua rassegna, come se fosse appunto un vademecum attraverso l'universo maschile, di modo che le ascoltatrici, telefonando all'800240024, potranno avere da me e da lei, visto che io ho il testo sotto mano, lei che ha l'esperienza scritta sulla propria carne di tutto questo genere maschile, per dare qualche esempio e qualche anche consiglio di uso. Per esempio il primo amore, l'esploratore, il manager, l'intellettuale, il marinaio, il self-made man, l'informatico, New Age, l'impiegato, lo scrittore, il marito, il giornalista, il metodo, disjockey, il focoso, il fotografo, l'alternativo, il bancario, il poeta, il politico, il meccanico, il medico, l'attore, poi ve ne dirò anche altro, ma insomma ce n'è per tutti i gusti. Ma andiamo avanti con il vecchio saggio, che è un genere di uomo che, ahimè, comincio anch'io a conoscere molto da vicino, è la chiave di soluzione della terribile e implacabile equazione per cui ci si guarda allo specchio la mattina, si vedono i capelli imbiancare, si vedono le rughe spuntare, quindi bisogna trasformare in virtù quella che, ahimè, è una tristissima necessità di natura. Il vecchio saggio sfrutta l'età avanzata con sex appeal di saggezza per sedurre le donne bambine, creature abbastanza intelligenti da poter apprezzare il valore della sua cultura, ma sufficientemente fragili da restare affascinate dall'enorme differenza di età. Si erige a vecchio maestro che ha ormai superato il fascino perverso delle passioni, che sa affrontare le asperità della vita senza farsene sopraffare. Cita e recita la mole delle sue esperienze e vive convinto di non lasciar trasparire la nostalgia di quando era giovane, anche un tantino aitante e con una brillante carriera davanti. In realtà ha collezionato più insuccessi di quanti sia disposto ad ammetterne e tiene segretamente nascosta la collana dei rimpianti. Una volta sedotta la giovane di turno, ne fa la propria pupilla pubblica, giocando sul fatto che nessuno oserebbe pensare uno come lui con un amante dell'età di sua figlia. Invece vive una banalissima vita di clandestinità extraconiugale, amplessi frettolosi, telefonate dal bagno, appuntamenti da cospiratore e scuse continue per inventarsi un pubblico motivo onde poter frequentare l'amante. Per mantenersi all'altezza delle aspettative della sua amante, a letto, il vecchio ha bisogno di essere quanto mai saggio e maestro, perciò predilige donne giovani, ma non troppo avvenenti, per quanto psicologicamente fragili. L'orgoglio della virilità vuole la sua parte. Non disdegna nemmeno di entrare nel ruolo di colui che ha ormai esaurito la spinta emotiva della sua vita e intanto sbircia nuove prede da infilare nel carnet. Può essere una piacevole modalità terapeutica per quelle donne che hanno avuto seri problemi con la figura paterna o un'esperienza naif nella vita di una donna giovane. Marzia Marchi, è veramente sublime l'infamia, veramente sublime l'infamia del vecchio saggio, che gioca sul grande Edipo irrisolto di una fetta importante di figlie, di genitori impegnati e brillanti, ma allo stesso tempo ha questa formuletta risolutoria che, non so, è del nostro DNA, cominciamo a prenderla senza che nessuno ce la insegni quando arrivano i primi capelli bianchi. È riassumibile un po' nella formula: sì, ormai figurati, io ho abbandonato ogni speranza, ci fosse chi fa il miracolo, ma no, non ci penso più, non ci spero più. È in questi termini, signora? Beh, in questi termini sì, in parte, ma diciamo che, per essere anche un po' provocatori, come sento che è il suo stile, è un attimo traslare dal vecchio saggio al vecchio porco, ecco, se può dire. Beh, il vecchio saggio è saggio in quanto deve per forza esplicitare la sua natura di porco. Se fosse saggio si metterebbe su una colonna e declamerebbe saggi filosofici invece che andare a toccare da vicino giovani fanciulle in momenti di difficile equilibrio. Certo, però c'è anche questa cosa che tutte le schede, infatti, così come anche nel vecchio saggio, hanno, chiudono con il fascino. Allora, questa sì, perché anche il vecchio porco evidentemente alla fine darà qualcosa in cambio dell'attenzione che viene attribuita alle sue flaccide carni, penso, no? Sì. Il saggio è, come dire, chi incontra questa figura poi risponde ad un bisogno, cioè trova la risposta ai propri bisogni. Le donne vanno incontro a queste tipologie di maschi anche per trovare delle risposte ai loro bisogni. Quindi, diciamolo francamente, per un minimo di riscatto, è una categoria di scellerati, ma è quello che in fondo le donne volta per volta chiedono per rispondere a qualcosa di irrisolto dentro se stesse. Sì, infatti il fascino del vecchio saggio è nel saperti citare sempre la frase giusta al momento giusto, quindi ha una chiave di interpretazione del mondo che molte spesso le donne, specialmente se sono poi molto più giovani, hanno... Beh, anche lui ha studiato, si è impegnato, in fondo ha passato una vita sui libri, è giusto che poi radicalmente tesaurizzi questo suo patrimonio accumulato. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Lei che categoria infame appartiene? Un infame rappresentante di vendita di gestione per prodotti e servizi per i parrucchieri. E quindi lei qual è la carta subdola che gioca? Ma io più che altro sentivo prima la descrizione tecnica che ci avete fatto, no? Del rappresentante. E alcune cose sono vere, ma alcune sono sbagliate, del tipo che non tutti chiaramente. Ecco, questa è la chiamata di un altro cliente. E sarà sua moglie, meglio che stacca il telefono. No, mia moglie, tra le altre cose, è anche lei una parrucchiera, quindi si sa benissimo cosa faccio. Alle volte faccio la faccia da angelo, altre volte faccio la faccia da cattivo, però sempre con massima professionalità, che ci tengo a dirlo. Sì, ma io non sarei nemmeno tanto tranquillo con la moglie parrucchiera, mi permetta, perché anche il negozio di parrucchiera è un luogo di confessioni femminili. No, è vero, perché come io alle volte passo per gay per non andare oltre, perché non voglio assolutamente mischiare cose varie nel mio lavoro. Ma cos'è quella, una tecnica sua di doppio salto mortale? Farsi passare per gay oppure è una stratagemma per liberarsi da pesi? È una stratagemma, per, come dice lei, per ritirarmi, perché veramente le volte sono incredibili. No, perché guarda, esiste una categoria che non so se la nostra esperta ha calcolato, e non vorrei toccare terreni delicati, visto che ieri sera ho visto un meraviglioso faccia a faccia fra Povi e Grillini, con Buttiglione, tutta una serie di politici da Bruno Vespa, ma esiste... E mi conforti Marzia Marchi se ha preso in considerazione il fatto, in questo momento particolare colui che simula una sua gaiezza in realtà non esistente per essere recuperato, per essere salvato, le è capitato qualcosa del genere, signora? Di qualunque tipo di uomo che faccia, metta in pratica questa cosa? Sì. Di dimostrarsi quello che non è realmente, dice? Sì. Beh sì, direi che questo lo fanno abitualmente gli uomini, naturalmente lo fanno anche le donne, ma gli uomini di più hanno bisogno, diciamo, di recuperare quel potere che una volta era loro attribuito semplicemente dal loro genere e che oggi non hanno più, quindi si assiste a una scena esilarante in questo senso, nel tentativo di manifestare una supremazia che poi non esiste più nei fatti. Una supremazia fisica, una supremazia intellettuale, una supremazia di potere che almeno nella nostra società, ma credo non solo nella nostra società, non è così più scontata. No, perché dunque adesso è nelle sale cinematografiche un film con la Gerini, Argentero, che parla appunto di una attivista politica molto veemente nella difesa dei valori tradizionali della famiglia e via dicendo, che poi si butta sfrenata in un sensuale tentativo di recupero a una sessualità convenzionale un suo antagonista politico gay. Quindi anche la chiave di fingere o simulare o accentuare un'ambiguità sessuale per costringere la donna a questa operazione di infermiera della sessualità corretta potrebbe essere una chiave molto moderna, secondo me. Potrebbe. Diciamo che l'omosessualità è qualcosa che è sempre esistito nel mondo maschile, credo per una grande paura poi del mondo femminile, quindi mi viene da pensare all'antica Grecia per cui appunto gli intellettuali erano assolutamente omosessuali, no? Quindi perché la donna era legata a compiti molto più banali, cioè legata alla riproduzione non poteva poi occuparsi così di veleggiare molto più in alto, quindi questa era una cosa tra uomini e di conseguenza anche la sfera sessuale poi si univa a questo aspetto. Sì, dico questo perché tra l'altro vedo che una delle accuse più veementi e più rabbiose delle nostre ascoltatrici che stanno scrivendo su Facebook è quella di fare la ruota come un pavone, mostrare possibilità infinite di seduzione, ma dunque scappare via e fuggire via. Mi scrive Davide: spregevolezza, io sono un musicista di molta modesta importanza e mi piace fare colpo sfoggiando la mia anima artistica. In realtà nascondo sempre le più segrete perversioni feticiste, faccio schifo. Ecco, io devo dire questa mattina però, a riscatto del genere che qui modestamente e in maniera del tutto immeritata rappresento, trovo una più profonda sincerità nel genere maschile nel mettere in piazza le proprie debolezze che è un desiderio reale e concreto da parte del genere femminile di poi esplicitare verbalmente quelle che sono i terrificanti motivi di disagio e di delusione nei confronti del genere maschile. Insomma, un passo avanti forse l'hanno fatto gli uomini, non hanno più paura della loro doppia, tripla, centuplice natura, della loro infamia che trapela nei comportamenti, ma lo dicono apertamente. Questo probabilmente fa anche parte di una nuova maniera provolonica di manifestare il loro fascino. Matteo, buongiorno. Salve. Niente, io volevo intervenire sul punto in cui praticamente avete apostrofato con l'aggettivo porco quella tipologia di uomini dai capelli bianchi per cui fanno uso delle armi, come dire, date dalla vita per sedurre giovani donne. E no? Cosa c'è di male secondo lei? Guardi che anch'io ho i capelli bianchi. Ma difatti, in questo no, io non trovo assolutamente niente di male, a patto che ovviamente ci siano dei limiti, prima di tutto, dell'età della donna che viene sedotta, no? E poi si parla sempre di donne maggiorenni comunque, questo va da sé, se no entriamo in una categoria patologica. Esatto, mediamente sì. L'uomo con i capelli bianchi è un'età. Ma io mi rifaccio più a un discorso di libertà, come dire, di costumi, non più anche la ragazza di 22-23 anni che debba per forza vivere, come dire, una storia che debba essere finalizzata comunque a una convivenza, a un matrimonio. No, ma guardi, grazie a Dio o per fortuna, sono pochissime le donne che alla fine, quando vanno con un uomo con capelli bianchi, hanno questo tipo di ambizione, la rassicuro. Certamente io esperienze del genere non ne ho mai avute, mi piacerebbe averne, no? Però non ci vedo niente di male nel fatto che un cinquantenne, un cinquantacinquenne, un sessantenne vogliano comunque vivere una donna giovane e dare quello che è il frutto anche di tutta un'esperienza di vita. Cioè, ma è quello che stavamo dicendo, guardi. Però non ho capito questa, come dire, definire un uomo del genere, metterlo in una condizione di porcaggine. Sì, ma la porcaggine, scusi, perché la vede in senso negativo? Io penso la porcaggine nell'accezione in cui la definiva Marzia Marchi, che al telefono ci ascolta, può intervenire quando vuole, sia una profonda e liberatoria capacità di esercitare la lussura in maniera sapiente, non in maniera arraffazzonata, improvvisata. È un vecchio porco, un uomo d'esperienza, perché sa esattamente come usare certe possibilità fisiche, psicologiche, sensuali, di convincimento. Insomma, riesce poeticamente a esprimersi, quindi è un porco. Mi scusi, prima io ero un giovane porco. sono stato un giovane. Sì, ma poco, infatti, posso. Sì, prego, prego. Io penso che non è una categoria in sé né negativa, assolutamente negativa. Diciamo che la donna di mezz'età, quale io mi ritengo, a un certo punto comincia, quando vede l'uomo più vecchio, insomma sui 50, 60, che poi approccia le giovani, diciamo intorno ai 30, automaticamente lo definisce vecchio porco, perché dice, va bene, tutta la condivisione intellettuale, sociale che abbiamo avuto, culturale, diciamo in senso lato, poi viene meno perché ti interessano le forme giovani e le carne. La carne fresca, ecco, diciamo la verità. Ecco, sì. Ma cosa c'è di male in questo? Ma non mi soffermerei sul fatto del cinquantenne o sessantenne che voglia, come dire, toccare la carne giovane, ma sul fatto di vivere i piaceri della vita, qualsiasi essi siano, in qualsiasi fase. Sì, io chiudo solo per un attimo, fermerei qui la discussione, perché sennò diventa un'altra trasmissione, semplicemente dicendo che il cinquantenne e sessantenne, non essendo naturalmente più nel pieno possesso del proprio fascino fisico, perché ahimè è chiaro che l'avvizzimento cutaneo comincia a dare qualche segno, compensa con una sapiente somministrazione di quello che la vita gli ha dato modo di imparare. Il ballista. Attraente, con una parlantina fluida e un bel timbro di voce, è il tipo di uomo che non aspetta incoraggiamento alcuno, ma si butta appena individuata la preda. Facilissimo restarne sedotte, perché riesce a dire una quantità di cose deliziose subito al primo incontro. Il ballista non racconta balle, interpreta la realtà a modo suo, la rielabora e la adatta ai suoi desideri e ai suoi bisogni. Se dice a una donna di essere libero e pronto a ricominciare, ha sicuramente una moglie e una famiglia consolidata che tiene rigorosamente separata nel suo cuore dalla donna che ha di fronte. Il ballista è così. Non ammetterà mai di mentire che l'amore che prova per l'amante è completamente diverso dall'affetto profondo che nutre per la moglie. Alla moglie ammetterà tutt'al più di provare una forte attrazione per l'altra donna, con la quale nel frattempo non è escluso che abbia pure prolificato. L'insondabile del ballista è come riesca a creare una tale rete di menzogne che si inanellano l'una nell'altra fino a diventare un bel giorno una fragorosa verità. Può capitare il giorno della sua morte, con due famiglie a compiangerlo, perché il vero problema del ballista è che non ha il coraggio di scegliere, soffre di delirio di onnipotenza ed è convinto di poter soddisfare chiunque. Il ballista è una categoria di amatore compulsivo, compulsivo ma in realtà con un retroterra sempre sicuro, sempre pronto. Il ballista non fa mai un passo senza una rete di sicurezza. Il ballista sa giocare molto bene sulla definizione dei ruoli, sulla differenziazione delle pulsioni sensuali. Il ballista è un vero artista, se non fosse che alla fine rimane aggrovigliato dalla sua stessa rete, perché poi il ballista si trova a dover gestire un'infinità di situazioni sentimentali che vanno ben oltre la fulgida possibilità di godere pienamente di grazie femminili in maniera gratuita. L'informatico. Ha lunghe mani bianche, lisce e affusolate. Guardandogliele, capisci subito che la cosa che stringe più forte è il mouse del computer. Il fisico rivela immediatamente le lunghe ore passate seduto, muscoli poco sviluppati, tendenza alla pancetta e modi pacati e lenti. Di solito è anche piuttosto pallido. Ha un suo fascino e può essere scambiato per un intellettuale, errore di cui ci si accorge immediatamente alla prima conversazione. Sa parlare di molti argomenti, ma in maniera assolutamente superficiale. In effetti è al corrente dei fatti più strani, ha aneddoti incredibili da raccontare, ma non può approfondire l'argomento oltre i 3 minuti di conversazione, anche se sicuramente ti sa dare gli estremi del sito. Tutto il suo navigare sulla rete lo rende tuttavia molto curioso. La sua donna è in continua competizione con la macchina infernale con la quale passa la maggior parte del suo tempo, per lavoro ma anche per piacere. Il tempo non collegato è un intermezzo di vita in cui si può mangiare, dormire, anche fare l'amore. Ma la passione vera scatta soltanto quando, nelle lunghe ore di navigazione in solitario, scopre qualche sito remoto, qualche notizia con la quale maturare una nuova visione del pensiero, che è sempre binario, senza sfumature, senza dubbi, senza reticenze. Per stare con un informatico, bisogna condividerne la capacità di vivere nel virtuale. I suoi pensieri d'amore sono sottintesi da default, i suoi slanci d'affetto si attivano toccando il tasto giusto. Touché, devo dire, Marzamarchi, in questa scheda tratta dal suo repertorio del maschio italiano pubblicato da Luciana Tufani editrice, mi ci trovo abbastanza. Devo dire che questa pretesa di sembrare un intellettuale, avendoci sempre sotto mano Wikipedia e Google, questo pallido e romantico nascondersi dietro uno schermo, questo approfondire la propria capacità di maestria nelle arti amatorie attraverso la rete, somiglia molto a quella che è la mia esperienza quotidiana e quella di tanti miei amici. Questa diciamo che è una scheda aggiunta recentemente, che è un maschio che perlomeno alle nostre latitudini fino a 5-6 anni fa nemmeno esisteva. Le schede sono state, il libro è stato concepito adesso alla fine, diciamo, di un'esperienza di conoscenza, non alla fine, a metà, perché non mi ritengo alla fine della... Io le auguro di scriverne almeno altri 3 o 4 prima della pace dei sensi. Infatti, però l'informatico è una scheda alla quale sono molto affezionata perché veramente è la somma di tante persone che ho conosciuto e le caratteristiche inevitabilmente sono davvero le stesse. Io ho viaggiato parecchio sui treni e posso riconoscere gli informatici proprio così, al primo sguardo, da alcuni dettagli, e non a caso li ho citati, questi delle mani, questo di una certa assenza, di un essere così sempre un po' in un altro pianeta, con dei riferimenti anche con un linguaggio del tutto incomprensibile. È una nuova tipologia della nostra società, certamente, questo nel passato non c'era. Sì, ma c'è sempre dietro la vecchia infamia maschile di fingere carisma e nascondersi dietro atteggiamenti che in realtà non rivelano assolutamente nulla. Marzia da Milano, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, l'ho fatta aspettare tanto tempo, ha ragione, ma vedevo scritto Marzia e Marzia Marchi, avevo l'idea che fosse la stessa persona, è una mia colpa. È una coincidenza. Questa è una tipica espressione di maschio ruffiano, per aggiungere alle tipologie detestabili già messe. Prego. No, volevo aggiungere ricordare un aneddoto su un treno di una imprenditrice che si esaltava le proprie doti professionali, e la cosa però che la faceva più orgogliosa era il fatto di aver sposato un asino e fatto diventare questo asino un cavallo. Ecco, è un'idea che è una persona che parlava un po' a voce alta e si capiva la propria, insomma, si sentiva quello che diceva. Secondo me certe donne o molte donne hanno l'incapacità di usare un po' l'arte della maieutica, di tirar fuori il meglio da una persona e quindi di esaltarla. Certo, ci deve essere un minimo di compatibilità. Ma qua più che maieutica è l'arte della metamorfosi, perché trasformare in un essere lievemente simile, cioè dall'asino al cavallo, si sentiva forte della sua capacità di avere srozzato probabilmente. Sicuramente. Era una donna che, come ho detto, esaltava le proprie capacità professionali. Sì, ma non capisco se avesse questa passione equina perché è andata a razzolare tra gli asini e si è presa un asino, poteva scegliere subito un cavallo. No, perché altrimenti sarebbero stati 2 cavalli, 2 tori nello stesso recinto, capito? Quindi è stata una sua azione di creazione, ma di formazione, di plasmazione, ecco, esattamente. Ma quindi una sorta di delirio luciferino di riuscire a trasformare, no, e modificare? Io penso che sia una questione che di porsi in una situazione attiva, di prendere il meglio e se riconoscerlo e migliorarlo di una persona. Quindi, non di... La sintesi del suo intervento è questo: noi stiamo classificando un repertorio di maschi detestabili, ma l'abbiamo anche detto all'inizio, in realtà le donne amano andare a pescare in questa sorta di riserva, questo zoo di animalità, perché poi hanno questa meravigliosa e femminile pretesa di riuscire a trasformare gli uomini. È un po' il discorso delle donne che amano troppo, che stanno assieme a uomini che le bastonano, le menano, che bevono, continuano a rimanere accanto, che hanno sempre questa idea di poterli cambiare un giorno. Il New Age fa un lavoro a contatto con la natura, la terra madre e il padre cielo. Le stelle gli sono sorelle. La luna è sua zia. Mani callose e bicipiti potenti, con la pienezza dovuta al sano lavoro fisico. Occhi magnetici, perché sempre orientati all'altrove. Lui non parla, raccoglie il sound della gente, non pensa, si lascia irradiare dal pensiero supremo del guru. Non si muove, danza nella luce, non ama, adora. E se fa sesso, è pura armonia col creato. È vegetariano perché le creature della terra sono fratelli e sorelle. Poi invita la donna a cena e prepara antipasto di prosciutto con salsa di soia, seitan e spinacini precotti. Ha le sue contraddizioni. sottofondo di musica indiana naturalmente, accende un incenso al patchouli e la donna, prima di rendersi conto di quello che sta facendo, se lo trova sopra che ansima come un muratore. L'uomo New Age è alla continua ricerca del significato profondo di ogni cosa. Dietro ogni proposta cerca la traccia di un perché, anche se gli hai soltanto chiesto di andare al cinema. È molto dolce, forse un po' infantile. Comprende molto la sensibilità femminile e a volte diventa uno sfinimento con due sensibilità femminili a braccetto. Infatti i suoi rapporti durano poco. Evaporano nel mistico. Stiamo pescando nelle parti più nascoste del nostro repertorio. Anche questa è una categoria in via di estinzione. Io penso che l'implacabile mannaia anagrafica sterminerà l'uomo New Age, ancora avrà una vita sessuale attiva ancora per 5-6 anni, ma non credo di più, perché poi questo suo focoso saltare addosso come un muratore si estinguerà e rimarrà comunque in contemplazione del fumo dei suoi incensi. Stefania, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamata. Dica la sua. Io volevo dire che sono molto, non ho più illusioni sui maschi e purtroppo li... Boh, guardi, quando non è che io non so odiare, comunque così, o sono indifferente, oppure li trovo molto, molto ridicoli e molto stupidi. Sì, ma non è detto che da persone ridicole e stupide non si possano trarre piacevoli sensi temporanei. Perché ormai, cioè, io ho una bella età, no? Ho detto 66 anni. Comunque. Vabbè, meglio, ne avrà visti di uomini più di una ventenne, immagino. Proprio. E quindi è importante, lei è esperta. Trovo che siate molto troppo condizionati dai vostri ormoni, cioè purtroppo diciamo madre natura non è stata favorevole. Scusa, adesso lei vuole raccontarmi la favoletta delle donne impassibili e cerebrali, degli uomini vittime dei sensi? No, non impassibili e cerebrali, semplicemente vabbè più logiche comunque, oppure... Ma dove, scusa, ma dove le ha viste queste cose? Non vorrei prendere troppo le parti, ma posso farlo visto che ho vituperato gli uomini finora. Mi sembra una lettura un po' sorpassata dell'uomo schiavo dell'ormone. Guardi, signor Nicoletti, guardi, è la verità, cioè secondo me è la verità, nel senso che se lei si guarda attorno, se lei vede la storia, se vede quello che fanno gli uomini che dominano il mondo, in pratica hanno loro il potere. Ma quelli hanno rinunciato all'essere uomini perché sono capi, dittatori, uomini di potere. Io sto parlando di un normale, consueto rapporto tra uomo e donna, come può accadere a chiunque di noi. Ma lo trovo ridicolo. Adesso lo trovo, cioè io il sesso lo trovo, non lo trovo, vabbè, non ma questo è un suo problema, però, signora. Il resto del mondo, grazie a Dio, ancora trae qualche soddisfazione, soprattutto in momenti di crisi come questa, rimane una delle occasioni di passare piacevolmente il tempo. Non deve parlare così, perché allora andiamo indietro di 80-90 anni dopo la prima guerra mondiale e vediamo, non so, famiglie con 9, 10, 15 figli. Ma no? Quella era procreazione, non era sesso. Noi stiamo parlando di piacevole attività relazionale, che non è una cosa detestabile. No, vabbè, adesso lei sta scherzando. Come No, sono serissimo, signora, sono serissimo. Alle sue battute, comunque... ma perché, mi dispiace che arriviamo proprio in coda a parlare di questo argomento che mi sta a cuore. Il sesso è una meravigliosa facoltà che ha l'essere umano, usata normalmente per riprodurre la propria specie, ma il fatto che noi attribuiamo a questa attività che la natura ci avrebbe dato con limiti di consumazione legati ai 20 secondi e quindi abbiamo dato a questo un senso di piacevolezza, di relazione, di sentimento, di tenuta del nostro equilibrio, fa sì che siamo uomini anche legati a una piacevolezza attorno all'atto sessuale. Questo non è negabile, secondo me. Vede che lei comunque, come tanti, insomma, come tutti, date molta, troppa importanza a questa... No, giusta, non dico molta, signora, quella giusta, normale, c'è... Come fa a dire che è giusta, normale? Su che cosa quali sono i suoi parametri? Come fa a dire? I parametri sono che è piacevole avere incontri sensuali con delle persone nei momenti in cui questo caso accade in una cornice interessante, piacevole, non vessatoria, uno si sente felice. Ma si rende conto che in un matrimonio... E sarà così forse il primo, il secondo, 3 anni? No, io sono sposato da 20 anni, signora, non ho questo problema, le dico sinceramente. Scusi. Lei non ha, e sua moglie? Mia moglie, se avesse avuto problemi, mi avrebbe detto o avrebbe risolto altrimenti. Mi fa piacere questo. Ma penso, così è normale, come succede sempre. Le mogli, se non sono contente dei mariti, vanno a cercare altrove. Certe volte lo fanno apertamente, certe volte nascostamente. Ma mi dispiace aver chiuso con una lettura mortificatoria della sensualità, una trasmissione che era sulla leggerezza e sull'incontro tra uomini pieni di difetti e donne che in realtà tentano a volte di correggere quei difetti o se li prendono così come sono. Ringrazio comunque Marza Marchi, ringrazio la nostra ascoltatrice, di cui ho pieno rispetto per la sua esperienza, che a me mi sembra con una conclusione non da me condivisibile, ma probabilmente condivisibile da gran parte del pubblico. Anzi, telefonate, chiamate, se volete che riprendiamo questo argomento di quanto sia piacevole il sesso, sono prontissimo a parlarne. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0. 2.0.